8:59 minuti, davvero una manciata di secondi alle 9. Ed è arrivato il momento di Pensatech, il nostro tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori, un buongiorno anche a Marco Boscolo di fianco a me. Buongiorno Damiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici in particolare. Eh sì, perché è un tema molto femminile quello che trattiamo oggi, ma in realtà non solo. È un tema decisamente serio, questa mattina parliamo di cyberstalking. Eh sì, perché cerchiamo di mantenerci al passo con l'attualità e il tema è decisamente caldo, sta facendo decisamente discutere in queste settimane. Stiamo parlando del caso che è emerso dalle dichiarazioni di Laura Boldrini, la presidente della Camera, in particolare in un'intervista a Repubblica, un'intervista curata da Concita De Gregorio. Ecco, cosa dice la presidente della Camera in questa intervista? Praticamente denuncia di essere sottoposta quotidianamente a minacce di morte, minacce di stupro e accuse. Dove? Su internet, sui social network. Ci sono messaggi, in alcuni casi fatti anche da fotomontaggi, con un forte contenuto sessista, maschilista, anche razzista, possiamo dirlo, assolutamente, il ruolo e il passato della Boldrini, diciamo che tira fuori il peggio di certe persone. Marco, tra l'altro il caso non è rimasto limitato in Italia, ha fatto molto discutere anche all'estero, anche perché la Boldrini in questa intervista proponeva una legge che affrontasse anche questa cosa, in realtà in parte ritratta poi nelle interviste successive, però comunque si è discusso, insomma, bastano le leggi attuali oppure no? Di questo poi parleremo con i nostri ospiti e andremo proprio nel dettaglio per capire se la normativa italiana ha bisogno di essere implementata, di essere modificata, oppure se esistono già delle normative che tutelino chi si sente vittima del cyberstalking. Sappiamo che recentemente è stata introdotta una legge sullo stalking in generale, quindi da questo punto di vista è stato fatto un passo in avanti. Vediamo se nel caso del digitale c'è bisogno di un'altra legge, insomma un perfezionamento di quello che già esiste. Di sicuro il profilo internazionale della Boldrini, con il suo passato appunto da diplomatico, da esponente di organizzazioni internazionali di primo piano, ha messo in moto anche l'opinione pubblica internazionale, perché per esempio della situazione delle minacce a Laura Boldrini si è parlato anche negli Stati Uniti attraverso The Daily Beast, che è un sito online molto seguito di notizie. Tanto per capirci, è la testata online in cui è confluita la redazione di Newsweek, quando Newsweek ha chiuso la redazione cartacea, e quindi insomma un giornale di secondo piano che ha parlato appunto della situazione in cui Laura Boldrini si è trovata e racconta appunto di queste pile di messaggi stampate dagli collaboratori di Laura Boldrini, che lei legge con un reporter del Daily Beast senza nessuna paura, e anzi invece decide di voler sapere nel dettaglio quali sono le minacce che le vengono rivolte. In questa situazione, come dicevi appunto tu Damiana, lei ha fatto una dichiarazione importante, ha detto bisogna smetterla con l'anarchia della rete. E questo è stato un po' il caso che ha fatto scatenare il popolo della rete, come viene chiamato in maniera così indistinta, che ha reagito in maniera abbastanza polemica e forte nei confronti di questa dichiarazione, in parte appunto poi ritrattate dalla stessa Boldrini, in cui diceva non ho mai inteso parlare di una limitazione della libertà online, ma insomma il caso si pone. Il caso ti pone, il problema è reale, cioè cyberstalking esiste, ce ne parleranno anche i nostri ospiti. Dall'altra parte c'è anche un tema appunto di limitazione online, cioè come se il mondo online dovesse essere più regolamentato rispetto al mondo reale. quando in realtà forse è semplicemente perché sembra, si maschera appunto da anarchia, cosa appunto parole che appunto attribuite alla Boldrini nell'intervista di Concita De Gregorio, poi ritrattate dalla stessa Presidente della Camera. Io chiederei anche a voi ascoltatori che cosa ne pensate, non c'è bisogno per forza di prendere una posizione contro un'altra, insomma, pensate che cerchiamo di fare un po' ordine e di mettere insieme tutti i vari pezzi del puzzle per discutere in maniera argomentata di questo tema. Vi chiediamo a questo punto di una vostra opinione. L'SMS è come sempre il 348-7649-289, ma ci potete contattare anche sui nostri social network, in particolare Twitter di Pensatech, che è chiocciolina Pensatech con il CH, ma anche la pagina Facebook di Radio Città del Capo. E allora a questo punto vi lascio in compagnia di un po' di musica e noi andiamo a contattare la nostra prima ospite. Davo così triste questo Sad Nyan Cat, davvero triste, eh? Davvero davvero triste, ma insomma sembra quasi un sottolineare la tristezza, diciamo così, dei commenti e delle minacce che si possono ricevere attraverso il cyberstalking. Vabbè dai, questa mattina cerchiamo di svegliarci con calma, anche queste note lente ci aiutano. E diciamo che anche il cielo grigio non aiuta ad essere proprio pieni di energia. No, infatti. Allora, dicevamo cyberstalking, il tema l'abbiamo introdotto, abbiamo parlato dell'intervista a Laura Boldrini, intervista anche in parte ritrattata. Io a questo punto risparmierei fiato e parole, perché di cyberstalking vorrei che ci parlasse la prima ospite, che è Enza Panibianco, blogger, fa parte tra le altre cose anche del collettivo di blogger di Femminismo al Sud ed è una delle ideatrici e organizzatrici del Feminist Blog Camp. Buongiorno Enza. Buongiorno a voi. Allora, chiediamo direttamente a te, che cos'è il cyberstalking? Allora, il cyberstalking nella cultura comune è una sorta di persecuzione online, sarebbe quello che ti succede nella realtà quando qualcuno ti perseguita nella realtà e ti causa uno stato d'ansia e bla bla bla, insomma. Tradotto poi sul web è un minimo più complesso, perché non diciamo che si definisce in tutt'altro modo, ed è su questo che noi infatti abbiamo lavorato con Femminismo a Sud, con altri compagni di Femminismo a Sud, per tentare di definire un fenomeno che assume proporzioni totalmente differenti, che vanno dalla minaccia semplice alla pubblicazione di foto più o meno hot, o da vestita o spogliata, quel che è, con gli indirizzi online, insomma la violazione della privacy, tutta una serie di elementi di disturbo che vengono commessi ai danni di una persona che si vuole perseguitare e che si vuole danneggiare. Ci possono essere mille altre forme di persecuzione, si può pingare continuamente l'oggetto della persecuzione, si può pingare, si può tempestare di mail, si può tempestare di insulti, ovviamente, di diffamazione e calunnie, si può in qualche modo rendere oggetto di tutta una serie di battute sarcastiche buttate qui e là. È molto frequente questa cosa, per esempio, che accada su Facebook adesso, che si prende di mira una persona e questa persona diventa oggetto di stalking perenne. Certe volte lo stalking si estende per gruppi, quindi per interesse di parte, perché c'è qualcuno con qualcun altro, ci si organizzano in squadrismi, e questi squadrismi realizzano un vero e proprio cyber stalking. Quindi diciamo è un fenomeno veramente complesso, che comunque sia poi si traduce nel fatto che si produce un danno, una violazione di diritti, violazione della privacy, si toglie serenità, sonno ad una persona, e può anche diventare una cosa, diciamo, che poi consiste in un reato che riguarda il corpo fisico, la persona, se appunto vengono messi online numeri di telefono, indirizzi di della persona perseguitata, oggetto della persecuzione, e poi ovviamente c'è il rischio che qualcuno si presenti e faccia anche male. Parlavamo prima dell'intervista a Laura Boldrini, cosa ne pensi? Cioè, chiaramente quello è un caso di cyberstalking, ci sono stati anche fotomontaggi, il contenuto è chiaramente maschilista e anche razzista, visto il passato di Laura Boldrini. Dall'altra parte Laura Boldrini denuncia il fenomeno, questo è sicuramente un passaggio importante, dall'altra parte in qualche modo chiede un intervento legislativo. Ma l'intervento legislativo in realtà c'è già, nel senso che la legge sullo stalking può essere applicata anche sul web. Il punto è che in realtà tutte le cose di cui ha parlato lei e che appunto noi abbiamo approfondito, che sono in realtà forme di squadrismo politicizzate che si muovono in rete per disturbare una persona, metterla alla gogna, linciarla, renderla oggetto di minacce, di insulti. Di tutta una serie di offese che sono oramai la cifra di una comunicazione che soprattutto sui social network è prassi. Basta che tu pubblichi la fotografia di una persona qualunque, che sia più o meno nota, di un soggetto qualunque, ti rendi conto che la sfilza di commenti sotto è tremenda, ti rendi conto anche della mole d'odio che cresce e che in qualche modo si orienta in direzione di quella persona, ed è un odio cieco, più o meno organizzato. L'odio che è stato diretto alla Boldrini è sicuramente organizzato, perché lei, voglio dire, sicuramente ha delle posizioni politiche precise, e rispetto a quello lì non c'è legge che tenga. Lì c'è un problema proprio di alfabetizzazione digitale in primo luogo. Ecco, infatti appunto ci sono diverse modalità per difendersi. Sì, ci sono. Noi abbiamo in qualche modo tentato di individuare delle modalità di autodifesa, perché a noi in generale, diciamo, le soluzioni autoritarie e repressive ci piacciono molto poco, ma poi conoscendo la rete sappiamo perfettamente che non servono, perché poi appunto le persone, tu puoi beccare un nick, ma ce ne sono altri che ti continuano a perseguitare, gli insulti non li spegni se quereli uno, un sito non lo chiudi, cioè se la tua immagine sta su un sito possono spuntare su altri mirror se c'è quell'intenzione. Non è così che funziona la rete è anche munita di grandi anticorpi, voglio dire, cioè la ministra Kyenge, che è stata oggetto di identiche pressioni, identiche offese, identici insulti, ha detto una cosa molto molto serena e molto bella in un'intervista, dicendo: io non ho detto niente, non ho fatto niente, perché volevo aspettare che gli altri italiani, le altre persone in qualche modo reagissero. E così effettivamente è stato, perché la rete ha anche un linguaggio tutto suo e ha sviluppato degli anticorpi, ci si muove veramente oramai per masse, per cui da una parte c'erano gli offesi, dall'altro lato si è mosso un mondo intero per dare solidarietà alla ministra e per usare linguaggi differenti, per farle arrivare un messaggio differente. La stessa cosa sicuramente si è messa in moto anche con la Boldrini, non mi pare che ci siano stati grandi silenzi, e questo è un dato di fatto. Che ovviamente le minacce la riguardino personalmente non è un dato da trascurare, le leggi per affrontare, se lei vuole utilizzare le leggi, ovviamente ci sono già, non sono ulteriori leggi restrittive, perché quello che aveva evocato lei inizialmente, anche se c'è stato questo errore di fondo del quotidiano che ha riportato male la sua intervista, l'ha titolata male, quel che è, comunque sia quello che pareva emergesse, sembrava emergere, era il fatto che fosse necessario un controllo preventivo. Lo stesso Grasso, presidente del Senato, infatti ha tirato fuori subito dopo una legge speciale. La legge speciale relativamente al web è comunque sempre di tipo preventivo, e il controllo preventivo su chi gravita online significa che tu sei un criminale a prescindere, significa che devi essere sempre individuabile. C'era la proposta della Carlucci che per identificare le persone che commettevano reati di pedopornografia diceva che tutti quanti dovevamo girare in qualche modo con la carta d'identità stampata sulla fronte, quindi non più nick, che secondo lei era una roba anonima. Difficile spiegarle che l'IP è anonimo per nessuno, ti puoi anche chiamare Pinco Pallo, ma poi l'IP esiste sempre. A questo proposito, Enza, scusami, ne approfitto per farti una domanda leggendo un sms che ci è arrivato. Mi spiace per la Boldrini, ci dice Luciano, ma voglio che rimanga l'anarchia della rete. Adesso, al di là della parola anarchia, c'è un po' soprattutto nell'utilizzo dei social network una perdita della rivendicazione sulla privacy. Secondo te questo è un vantaggio per le donne o per gli stalker? La perdita della privacy in generale è un vantaggio, è uno svantaggio per chiunque. Non so esattamente questo che volevi sapere, nel senso che il controllo, se tu vuoi essere protetto, quello che tu chiedi è protezione e sicurezza, quello che generalmente si chiede è che tu sia controllata, che sia controllata la rete. Quando viene controllata la rete non viene controllata la persona, il soggetto che ti fa un danno, viene controllata anche tu. Quindi è come se tu in una strada metti delle telecamere accese sempre, perché così ti consentirebbero di attraversare quella strada serenamente, registrando il passaggio anche di eventuali molestatori. Ma di fatto sei tu ad essere controllata, per cui la perdita della privacy è un fatto che incide fortemente nella vita di chiunque. Se eventualmente può sembrare faciliti in qualche modo il fatto che si possa rintracciare una persona che ti disturba meglio, in realtà non è poi così, perché non esiste la privacy in rete, non esiste il punto, non c'è un solo sito in cui tu possa in qualche modo viaggiare senza il tuo IP. I server sono dappertutto, cioè ci sono anche se sono lontani, basta che fai una rogatoria e vai a prenderti. Io non so, voglio ricordarti una vicenda che è successa ad Autistici, che è il server dove la piattaforma, diciamo, dove stanno blogs, dove sta anche il nostro blog, e in quel caso per una mail su Autistici ci sono anche diverse mailing list e diverse mail, ci fu una denuncia per diffamazione, per una mail fu sequestrato tutto il server e centinaia e centinaia di indirizzi mail, i cui contenuti ovviamente sono stati resi disponibili alle forze dell'ordine, non so in virtù di cosa, e c'è stata una grossa violazione della privacy, e quindi voglio dire, se si muovono così rispetto a server e contenuti che sono in qualche modo liberi, figuriamoci quello che può succedere su Facebook o quello che succede su Twitter, dove tutto è loggato, dove tutto è rintracciabile, e quindi voglio dire, la privacy non è una cosa, non esiste, non c'è. E forse dovremmo essere noi a rivendicarne anche un po' di più. Grazie, esatto. Enza Panebianco, grazie di essere stata questa mattina con noi. Grazie a voi. Grazie. Ricordiamo Enza Panebianco, blogger, fa parte anche del collettivo di blogger di Femminismo al Sud. Proprio sul blog di Femminismo al Sud trovate anche molte indicazioni su che cos'è il cyberstalking e anche come difendersi. Stiamo parlando di cyberstalking questa mattina e dopo aver sentito Enza Panebianco che ci ha fatto un po' il quadro di che cos'è, a questo punto andiamo a vedere anche quali sono le possibilità legislative di poter intervenire su questo tema. Sì, perché proprio la Boldrini, in quella famosa intervista da cui è partita il nostro racconto questa mattina, invocava la necessità di una nuova normativa, di una regolamentazione più severa delle attività online in modo da tutelare maggiormente chi è online e appunto può essere vittima di cyberstalking. Noi per andare a capire se effettivamente la situazione dal punto di vista legislativo necessita di un ritocco, di un miglioramento, di un perfezionamento, abbiamo parlato ieri con Guido Scorza, che è un avvocato, nonché blogger e insomma attento osservatore del rapporto complesso tra diritto e nuovi media digitali. E siamo andati proprio a chiedergli che cosa si può dire dal punto di vista della legislazione italiana sulla questione dello cyberstalking. Il Presidente della Camera ha parlato di anarchia del web, poi per la verità ha rettificato dicendo di non aver mai detto anarchia del web, ma sostanzialmente dice servono regole nuove. La realtà è che in relazione almeno agli episodi che cita a fondamento di questa richiesta non ce n'è neppure uno che sembra sfuggire alle regole che già ci sono. Tutti gli episodi di violenza verbale, di stalking, di diffamazione, di incitamento all'odio razziale, dei quali parla l'onorevole Boldrini, rappresentano già reato nel nostro paese e sono fattispecie di reato punibili ugualmente, tanto che siano commesse offline, tanto che siano perpetrate online, ed anzi in molti casi la pena può essere persino più severa se il reato è commesso attraverso internet per via della maggior diffusività del mezzo telematico rispetto allo stesso tipo di messaggio violento scritto semplicemente su un muro guidato per strada. Quindi non servono regole nuove, al limite serve riuscire ad applicare quelle che ci sono, ma questo è un principio che vale evidentemente per tutte le condotte, ecco, per quelle online e per quelle fuori dalla rete. Ecco, c'è un altro aspetto che viene spesso fuori quando si tratta di questi argomenti, e cioè il fatto che poi magari anche quando si applicano leggi che già esistono, magari il server su cui si trova quell'atto ingiurioso, quindi quel testo, quel video, sta in un paese che è diverso dall'Italia, perché facciamo uso di un servizio internazionale. Ecco, c'è un problema anche di internazionalità del diritto per applicare questo tipo di normative? Ma più che di internazionalità del diritto, posto che la disciplina che applico poi è quella del luogo nel quale l'evento si verifica, quindi applico senza grandi difficoltà, se vengo offeso in Italia, la disciplina italiana, a prescindere dal fatto che il contenuto che mi offende sia ospitato su un sito islandese piuttosto che americano. C'è indubbiamente un problema di raccolta della prova piuttosto che di enforcement dell'eventuale provvedimento, e qui l'unica soluzione è quella della cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale, attraverso però appunto convenzioni internazionali come quella di Budapest sul cybercrime. E quindi anche sotto questo profilo serve davvero poco invocare nuove leggi. Anche qui c'è un po' di confusione, perché si tende a dire che in relazione alle cose della rete sia senz'altro giustificata una normazione speciale, dimenticandosi che purtroppo ogni sistema giudiziario, incluso il nostro, ha dei limiti con i quali occorre convivere. Mi domandavo se dal tuo punto di vista noti delle differenze su come viene trattata questa cosa dal punto di vista legale in Italia rispetto per esempio agli altri paesi europei. Ma certamente noi abbiamo, in maniera per la verità e forse per fortuna incostante, perché ci sono soltanto dei picchi di intolleranza, dei momenti, questo probabilmente è uno di quelli, in cui dimostriamo una minor sensibilità sensibilità verso la tutela e la promozione della libertà di informazione di quanto non accada fuori. Fuori, con alcune eccezioni importanti, ecco, non siamo sicuramente peggiori della lista, o almeno non lo siamo sempre, però ormai è piuttosto chiaro il concetto per il quale mettere le mani su un contenuto pubblicato da qualcun altro online significa comprimere e limitare la sua libertà di manifestazione del pensiero, e quindi questo significa non che un giudice non possa farlo, ma che dovrà farlo solo quando è davvero convinto che la pubblicazione di quel contenuto sia illecita. Qui da noi, insomma, ecco, molto spesso siamo un po' dal blocco, dalla rimozione facile, per cui si corre ad invocare l'esigenza di provvedimenti sommari ed urgenti che dispongano la rimozione del contenuto, il blocco nell'accesso ad un sito internet, anche a prescindere da un accertamento giudiziario del carattere illecito di quella pubblicazione. Quindi direi che la cifra che in questo momento ci allontana dalla più parte dei paesi nei quali questi problemi vengono affrontati è un pizzico di sensibilità in meno per la libertà di informazione, insomma, quasi a dire che in internet tutto sommato ci sono tonnellate di contenuti e che se ogni tanto se ne fa saltare qualcuno, magari anche lecito, a tutela dell'onore piuttosto che della reputazione di qualcuno, va bene così, ecco. Però è una deriva che ritengo estremamente pericolosa. Quindi, presidente della Camera. Scusate, era andato in loop. Quindi anche Guido Scorza, insomma, ci dice che le leggi ci sono, semplicemente la rete non è questo ambiente anarchico, come forse un titolo fuorviante faceva capire, ma in realtà è molto ben regolamentato, anzi molto spesso si tende anche a perdere la propria privacy nella paura anche di non essere rintracciati. Insomma, i social network in qualche modo ci hanno anche fatto a perdere l'abitudine ai nickname, in particolare Facebook, in realtà, in cui invece inizialmente la rete era molto popolata. Assolutamente. La cifra di tutta la mattinata di questi racconti fatti con Enza Panebianco e Guido Scorza mi pare che ci sia in Italia, nel nostro paese, nella nostra discussione pubblica attorno al problema del cyberstalking, diciamo in generale all'identità digitale, una difficoltà a rendersi conto che digitale oppure offline, insomma online e offline, fanno sempre parte della vita, sono regolamentati dalle stesse leggi, dalle stesse questioni anche di buona educazione, di rapporti umani civili che dovrebbero popolare la nostra vita quotidiana offline. Quindi c'è questa difficoltà a capire che le due cose non sono in contrasto l'una con l'altra, non sono due mondi apparentemente diversi e regolamentati in maniera diversa. Anzi, in qualche modo, come ci diceva Enza Panebianco, la rete sviluppa degli anticorpi e in qualche modo sviluppa anche le reazioni a quelle che sono queste cose terribili come cyberstalking in rete. Una di queste, diciamo, di questi anticorpi è ad esempio alcune iniziative, ne cito una lanciata pochi giorni fa, si chiama Le cose cambiano ed è una piattaforma dedicata ai ragazzi che si stanno confrontando col proprio orientamento sessuale e che non si sentono compresi o accettati e che hanno anche subito episodi di bullismo omofobico, che vengono in qualche modo discriminati per quello che sono, ovviamente questo online o offline. E appunto, come abbiamo detto anche stamattina, la cosa migliore è, denunciare, magari non solo direttamente con la polizia, ma denunciare pubblicamente, raccontare pubblicamente di queste persecuzioni, in qualche modo creare una reazione pubblica. E allora Le cose cambiano è una piattaforma di video in cui chi vuole può raccontare la propria esperienza e raccontare anche come le cose cambiano, come è possibile uscire dal bullismo, dal cyberbullismo e dal cyberstalking. Esatto, questo lo fanno i ragazzi di Le cose cambiano sul loro sito lecosecambiano.org, dove trovate queste storie raccontate in prima persona. E tutto questo per sottolineare, come diceva proprio Enza Panebianco nell'intervento che ha fatto pochi minuti fa ai nostri microfoni, di come non manchino le regole, ma manchi piuttosto una cultura generalizzata di cosa vuol dire stare in rete e anche di che cosa voglia dire, aggiungo io invece, un rapporto civile con le altre persone e, insomma, una capacità di esprimere esprimere le proprie opinioni in una maniera educata, civile e cortese anche. Beh, la rete ha anche la sua netta etichetta, che sarebbe bene che chi si muove in rete imparasse. Anche se sembra un termine molto anni 90 che sta passando di moda, quindi invece bisognerebbe ritirarlo fuori dai cassetti e metterlo in prima pagina su tutti i siti. E lì ritorna il consueto argomento dei nativi digitali e dell'educazione per tutti alla rete. Però ormai non c'è tempo perché sono le 9:29 minuti, ovviamente però il dibattito continua in rete, perché potete contattarci sui nostri social network, @PensaTech su Twitter. Noi aspettiamo i vostri commenti e ovviamente sul sito di Radio Città del Capo e anche lì su www.radiocittadelcapo.it. La prossima settimana avrete delle sorprese, ma per il momento non vi anticipiamo nulla. Sigla.